Napoli stanotte si è svegliata, la gente non faceva che gridare. Tutta la città si è spaventata, che cosa è capitato verso il mare? Questa notte un terribile ciclone si è abbattuto sul Vesuvio e se l'è portato via. Oh mamma mia, oh mamma mia, tutta Napoli si chiede, San Gennaro che succede? Il Vesuvio se n'è proprio andato via. Oh mamma mia, è sparito e nessuno sa dov'è. Napoli, quanta gente vedo piangere, perché tu mia bella Napoli non canti più. Chiedono gli scugnizi tutti in lacrime, dove sta il Vesuvio, dimmelo, che non c'è più. Notte un terribile ciclone si è abbattuto sul Vesuvio e se l'è portato via. Oh mamma mia, sarà forse nell'America nessuno. Mattina sopra Napoli è tornato e con grande cortesia. Oh mamma mia, il Vesuvio ha riportato nel suo mare.